Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mentre pensavo al da farsi, ecco che la situazione si fa immediatamente seria. Incominciano movimenti inequivocabili e poi una serie di... Scusa, non so cosa mi succede, non mi era mai capitato. Ciao, sono Marco, ho 50 anni, sono sposato, ho due figli, vivo nella provincia di Firenze e faccio il cuoco di professione. Sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui e quelli che avete appena sentito sono Mauro Ottolini e Isusa Phonics. Buongiorno ragazzi, ben arrivati, benvenuti. Ciao, grazie. Allora, andiamo nell'ordine. Nell'ordine è che oggi è mercoledì e come sapete, se ascoltate questo programma da qualche tempo a questa parte, noi ogni tanto il mercoledì facciamo un live, cioè portiamo delle persone che hanno voglia di condividere la loro musica dal vivo qui a Radio 24 e hanno risposto, a questo caso Mauro Ottolini, che avete sentito suonare il Sousaphone, che... Esatto, che immaginatevi un grosso serpentone bianco attorcigliato alle spalle di Mauro con un, come si chiama, la bocca quella... Campana, tipo un tulipano. Un grosso tulipano, il tutto bianco. Insieme a Mauro Ottolini ci sono Vanessa Tagliabue York, che è voce e pentole cromatiche, nel senso che ci sono dei, c'è del pentolame qua che possiamo sentire... Grazie Vanessa. Enrico Terragnoli al banjo qua di fianco a me. Ciao a tutti. E Guido Bombardieri invece al clarinetto. Noi continuiamo a fare quello che facciamo tutti i giorni, cioè raccontiamo delle storie. Oggi raccontiamo la storia di Marco, che parla di un episodio, non so se lo avete intuito dalla presentazione e dall'intro. Parla di un episodio piuttosto spiacevole, si chiama Imbarazzo. Imbarazzo è il titolo della storia che ci ha mandato Marco. E racconta di quella roba che ogni tanto succede soprattutto, direi esclusivamente, agli uomini. Che in altri termini viene chiamato fare cilecca. È orribile usare il termine fare cilecca, Mauro, però tu secondo me ne hai uno migliore. Defaianza amorosa. Rimanere sorpresi è un termine. 349-238-6666 per scrivere indietro in diretta, oppure Voi Siete Qui Radio 24 è il profilo Facebook, Voi Siete Qui R24 è il profilo Twitter. In quei casi, quando, come dice Mauro Ottolini, si rimane sorpresi, si inventano delle scuse abitualmente. Io tempo fa feci, quando ancora non lavoravo in questa radio, lavoravo in una radio molto più piccola, ma non meno importante ovviamente, avevamo fatto una notturna in cui parlavamo di questa roba qua ed erano venute fuori delle scuse che secondo me erano più imbarazzanti dell'avvenimento stesso, ed erano le scuse erano tipo scusa, tu non sei come le altre, quando sono innamorato faccio più fatica. Questo era proprio il top. Questa è bellissima. Questo era il top delle scuse. Mi fai un suono dedicato a questa roba qua? Ok, senti questo. Scusami, ma sei troppo bella e non ci sono abituato. Oppure, scusa, ma stasera ho mangiato pesante e non ho digerito. 349-238-6666. Se avete mai addotto delle scuse di questo tipo, noi siamo qui, raccontiamo storie. Insieme a noi, come vi dicevo, ci sono oggi i Sousaphonics. O meglio, adesso poi spiegheremo meglio chi siete e cosa fate. Voi siete solo una parte dei Sousaphonics, giusto? Una piccola parte. Siete in quattro. Voi siete, ho qui davanti a me il CD che si intitola Bix Factor. Siete in 12. Siamo in 12 e oggi purtroppo non ci stavamo qui dentro tutti quanti. Però Mauro, mi dici più o meno per uno come me che non ne sa nulla, che tipo di musica fate? Ecco, noi facciamo una specie di nostra rivisitazione di musiche vecchie, antiche, musiche nostre. Questa è una definizione straordinaria, di musiche vecchie. Sai le musiche vecchie? Tutto ciò che è vecchio, che è più nuovo di quello che è nuovo. Ok, e le fate dal vivo, le fate nei dischi? Sì, sonorizziamo cartoni animati, film. Ok. E, insomma, ci divertiamo usando strumenti di tutti i tipi. Nel frattempo però sonorizzate questa storia qua, siamo in diretta, sono le 16:13, questa è Radio 24 e soprattutto questa è la storia di Marco. Love is like a hot drink, turns off and on. Like some friendships when your money's gone. Love's dancing with loan sharks when your heart's in thaw. Finalmente si parte. Dopo un anno di lavoro come disegnatori, noi colleghi, si parte. Un intero inverno a parlarne. Destinazione Sicilia, più precisamente Taormina. Siamo in sei. Io, mio cugino, il Cirri, il Latta, il Burro e il Testa. Sì, perché l'abitudine è di darsi dei soprannomi dalle nostre parti in Toscana è d'obbligo. Siamo tutti tra i 17 e i 19 anni. Estate 1980. Di lì a qualche giorno sarebbe esplosa la bomba alla stazione di Bologna. Quell'estate che non sembrava arrivare mai. In senso meteorologico, intendo. Tant'è che intorno al 20 luglio avevamo ancora il golfino alla partenza a Santa Maria Novella, stazione di Firenze. Ma tanto andiamo in Sicilia. Chi se ne frega del tempo, lì farà caldo di sicuro. Treno strapieno, con gente che dorme nei corridoi e anche sulle cappelliere degli scompartimenti. A ogni fermata sale gente e non scende nessuno. Dopo un viaggio allucinante di 18 ore, finalmente la Sicilia. Sono tutti compagni di lavoro e più o meno avevano tutti i soprannomi come usava questa parte. E il Latta era quello che diciamo il bello del gruppo e poi c'era insomma tutti i ragazzi più o meno tutti uguali, ecco, tutti il grasso, il magro, il secco, il lungo. La ferrovia da Messina a Taormina costeggia un mare fantastico, fatto di anse con acque turchesi. E poi, eccoci, Giardini Naxos. Non sappiamo dove andare, chiediamo il campeggio più vicino, internet aveva da venire. Ci mettiamo in cammino con zaini verdi tipo militare e canadesi con tanto di telaio di alluminio pesantissimo sulla schiena, verso Taormina, che stava molto più in alto. Nostra destinazione, il campeggio San Leo, a circa 2 chilometri da Giardini Naxos. Arriviamo, piantiamo canadesi nelle piazzole assegnateci, per montarle ci vogliono circa 2 ore. Eravamo tutti alla prima esperienza con tende affini. E poi ci buttiamo subito in mare, inebriandoci del calore della Sicilia. La sera, nelle discoteche di Taormina, il giorno, sugli scogli e in acqua. Passano così i primi giorni. Poi, a un certo punto, ci accorgiamo che sono arrivate alcune ragazze in una piazzola un po' più in là. Ci affrettiamo a cercare di rimorchiarle subito, come al solito in tutti i gruppi, c'è un bello. E noi non facciamo eccezione. Il nostro bello è il Latta. E quindi, secondo voi, chi ha cuccato? Lui, naturalmente. Il fatto è che, oltre al più bello, era anche il più grullo, per dirlo alla fiorentina. C'eravamo disposti 3 per tenda. Io ero in compagnia del Burro e del Latta, appunto, nella minuscola canadese di 3 metri quadri. Dopo una serata passata in discoteca a bere birra, andiamo a dormire. Io e il Burro nella nostra tenda, gli altri, il Testa, il Cirri e mio cugino, nella loro. Nel frattempo, il Latta si era appartato con una delle ragazze del vicinato. Un po' alticci, un po' stanchi, il Burro appena tocca il materassino gonfiabile della tenda, letteralmente si spegne. E io lo seguo dopo qualche minuto. vengo però svegliato da gemiti e sospiri. E prima di connettere il cervello e realizzare, mi ci vogliono alcuni istanti. Ebbene sì, era il Latta, che aveva pensato bene di portare la ragazza nella nostra tenda. Si piazzano alla mia sinistra, che era il posto del Latta. E quindi, che fare? Arriviamo a questo campeggio, il campeggio si chiamava San Leo, e si monta queste tende. Quindi dopo qualche giorno, se era lì, arrivano queste figliole, queste ragazze del Nord Italia, da qualche parte, arrivavano, e poi è successo quello che è successo, insomma. Mentre pensavo al da farsi, ecco che la situazione si fa immediatamente seria. Incominciano movimenti inequivocabili e poi tutta una serie di frasi tipo: scusa, davvero non so cosa mi succede, non mi era mai capitato. Insomma, il bello aveva fatto cilecca. E poi, all'improvviso, quasi un urlo proveniente questa volta dal burro alla mia destra. Sì, perché io ero al centro e lui, rivolgendosi a me, chiedeva: i che succede? I che c'è? Che tu fai? Rimettendosi a dormire, anzi spegnendosi di nuovo, a quel punto non potevo più scoprirmi e quindi continuai anch'io a dormire. Poi finalmente capirono e se ne andarono. La mattina seguente nessuno disse nulla. Il Latta, che pensava che nessuno si fosse accorto di niente. Il burro, che dormiva sul serio. E io, che dormivo per finta. Non ho mai parlato a nessuno di questo episodio, neanche a mia moglie. Non so bene il perché. Comunque siete i primi a saperlo. Con alcuni di questi ragazzi, ora cinquantenni, siamo rimasti in contatto. Con altri ci siamo semplicemente persi. Alle strade della vita portano anche lì. Ma quando con alcuni ci ritroviamo, spesso il pensiero e i discorsi tornano al 1980 e a quella vacanza da adolescenti senza tempo. I fell into the ocean when you became my wife. Mary, you're all the deep blue sea. I wanted a second life. I risked it all the deep blue sea. Because men do foolish things, turning kings into devils, and beggars into kings. Pretend that you mean nothing at all, a word is free. Begs the answer. Can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band will play our song again, and all the world is spring. Se ne esce quasi in punta di piedi da questi pezzi, anche se siamo in diretta alle 16.22, sempre Radio 24, continuiamo a raccontare storie qui a Voi Siete Qui, e lo facciamo anche grazie alla musica di Mauro Ottolini e dei Sousaphonics. Andate sul nostro profilo Facebook, Voi Siete Qui Radio 24, che abbiamo appena caricato una foto, per capire che cosa, beh, insomma, un clarinetto più o meno si sa che cos'è, giusto? Un banjo sappiamo che cos'è, una bella donna che canta lo sappiamo, e però diciamo un sousaphone, giusto? Ma sì. Mauro, mi spieghi perché il sousaphone, che particolarità? Mi parlavi delle marching band, giusto? Allora, questo strumento, diciamo che è l'unico strumento che è stato inventato per marciare, per poter far muovere la musica, no? Okay. Quindi è una specie di basso tuba, solo che è stato costruito intorno al corpo del suonatore, e quindi si avviglia come una specie di serpentone, come giustamente hai detto tu prima, e in modo che tutto il peso dello strumento ti consenta di essere distribuito sulla colonna vertebrale e camminare, no? Okay. Cioè poter stare in piedi e soprattutto soffiarci dentro. E soffiarci dentro, esatto. Che diciamo fa la differenza. Originariamente un sousaphone pesa anche più di 20 kg, mentre questo qua che ho io, che è tutto bianco, è di plastica, non dovrei dirlo, pesa 7 kg. Ma il suo fascino. Sì, è vero. Io lo penso anche per una questione di insomma, fascino. Di fascino. Mauro, tu facciamo tre passi indietro. Tu nasci come trombonista, o sbaglio? Correggimi se sbaglio. Io sono il trombone, e in effetti sono vari strumenti a fiato. Anche okay. La però, tromba. Come dire, il diploma al conservatorio è in. In trombone. In trombone. Sì. Anche okay. Uno dei più grandi trombonisti mondiali. Che gentile. Mauro Torini, pensate, Vanessa Tagliabue York dice. Vanessa dice del suo leader, se sei un po' mi vuole bene, che è il miglior trombonista al mondo. Comunque, nasci come trombonista e suoni nell'orchestra dell'Arena di Verona. Ho suonato, diciamo, per 12 anni, poi ho lasciato per poter seguire la strada del jazz, no? Ok. Per poter seguire, diciamo, la strada, ecco. Ok, qual è la cosa più difficile di fare il musicista oggi? Ma credo che sia far sì che gli altri ti ascoltino con attenzione. Ci sono tanti suonatori e pochi ascoltatori veri, diciamo, è una metafora, però è la verità. Voi che musica ascoltate, oltre alla vostra ovviamente, oltre a quella che usate per lavoro, per imparare, che ne so, si ascolta musica per imparare anche, immagino. Certo, sempre, si ascolta per passione, per diletto e anche per curiosità e anche per avere degli stimoli nuovi, no? Quindi il vero ascoltatore è quello che non si accontenta di ascoltare un'unica cosa, ma ascolta il rock, ascolta il jazz, ascolta la musica contemporanea, la musica classica, e non ascolta certi tipi di musica. Cioè, tu usi Spotify, per capirci, Mauro, usi Spotify, fai le... Lo uso perché Spotify è molto bello, perché ci sono varie, c'è veramente di tutto, però diciamo che a casa mia ho tutti i dischi poi originali che ci tengo ad avere, perché è la mia passione, no? È come, non so, per un amante del calcio avere le magliette dei giocatori preferiti. Intanto arrivano dei messaggi, Giovanni dice saluti da Ambria Jets. Oh, Ambria Jets. Ambria Jets, temevo avesse scritto male, ok? Sì. E poi ancora Marcella, che ringrazia per la bellissima atmosfera di oggi, che mette allegria in questa giornata grigia. Purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, però, perché vogliamo sentire un altro pezzo. Però vorrei ricordare che se avete voglia di sentire Mauro Ottolini e tutti i Sousaphonics, sarete tutti e 12, vero? Sì, 7 con il febbraio. Nostro spettacolo Bix Factor, che è una specie di musical che... diciamo, ripercorre un po' questo nostro romanzo che... Non lo sai bene neanche tu, Mauro. Sì. Perché Mauro mi spiegava che in questo CD che ho qui nelle mie mani, e che vedrete nel video che sta girando ovviamente Marco Ligabue, e tutti i live sono messi online grazie alla sua regia, in questo CD c'è un romanzo che è un film senza, diciamo, pellicola. Che questo lavoro, che è stato prodotto dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, voleva essere un CD. In realtà poi è stato battezzato come il primo film invisibile della storia dell'umanità. Benissimo. Perché dentro contiene un racconto di fantascienza, un breve romanzo che abbiamo scritto io e Vanessa, e diciamo, uno leggendo il racconto segue la traccia, la playlist, diciamo, e ha non è che ha il sottofondo al racconto, attenzione, il racconto attenzione. Si integra con quello che si ascolta. Benissimo. Per chi ci ha capito qualcosa, benissimo. Per chi non ci ha capito niente, il 7 di febbraio, venerdì 7 febbraio, i Sousaphonics suonano al Teatro Camploi di Venezia. Di Verona, perdonatemi, alle 21. Alle 21, quindi a Verona, il prossimo venerdì praticamente. Sì, venerdì 7 febbraio al Teatro Camploi, che è un bellissimo teatro, un po' strano, fatto ad angolo, vero? Sì. C'ha questo palcoscenico angolare. Dobbiamo proseguire. Per proseguire, prima di chiudere, sentiamo l'ultimo brano di oggi, che ci suonano Mauro Ottolini e i Sousaphonics, che è un brano di Diciamo, arriva dal trio Lescano. Ok, è un brano che arriva dal trio Lescano. I Sousaphonics e Mauro Ottolini. La nebbia portata dal vento scende dal ceto nuvento. Nel gelo di un'ombra smarrita si gonfia con la nebbia di un rimpianto per l'amore che vuoi. Soffre d'amore, senza di lui resterà la nebbia portata dal vento, discende dal cielo son vento. Io resto qui da sola. Sono le 16:30 minuti in diretta da Radio 24. Questa era la puntata di Voi Siete Qui Live. Sono stati in studio con noi a suonare, li avete sentiti, Mauro Ottolini al sousaphone. Grazie Mauro. Grazie a voi. Vanessa Tagliabue York alla voce e alle pentole cromatiche. Grazie. Enrico Terragnoli al banjo e Guido Bombardieri al clarinetto. Ripeto, come dice Davide, dopo avervi ascoltato in diretta verrò a sentirvi a Verona, ricordiamo, il 7 di febbraio al Teatro Camploi. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Marco. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Eros e vivo a Brescia. La storia di domani è la mia e parla di un incontro che ho avuto con un ragazzo in stazione centrale a Milano. Questa è la mia storia e io sono qui.